2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Come sempre siamo in onda il venerdì dalle 22 alle 23, domenica 13:30-14. Ma come sempre vi ricordo il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. Iniziamo come sempre da alcune notizie selezionate in breve durante la settimana, le nostre Digital News. Digital News. In questa puntata parleremo del business dello spazio, di come lo spazio si sta trasformando, una cosa che sembra lontana, invece molto più vicina di quanto pensiamo. E iniziamo la nostra rubrica delle Digital News con una notizia che riguarda lo spazio, riguarda SpaceX, che ha lanciato un satellite in orbita con uno dei propri razzi, il Falcon 9, che per la prima volta montava un primo stadio che aveva già volato in passato. Sapete, o se non lo sapete lo ricordo, che SpaceX, per abbassare il costo dei voli spaziali, ha ideato un sistema che permette al primo stadio, quello più grosso, quello più ingombrante del razzo, di rientrare sulla Terra e atterrare grazie ad un motore e centrare una piazzola di pochi metri con una precisione che ha dell'incredibile. Se andate su internet vedete questi video, andate magari sul sito di SpaceX. Allora, in passato sono già stati alcuni stadi che sono rientrati, ma nessuno era stato riutilizzato, e si tratta, quello di questa settimana, di un evento storico che dimostra che cosa significa poi fare innovazione concretamente. Un'idea tutto sommato semplice, sebbene non facile da realizzare, a cui nessuno aveva pensato, e in questo caso è stata messa in pratica da questa azienda fondata da Elon Musk. E sempre a proposito di Elon Musk, ci sono altre due notizie. La prima riguarda il 5% di Tesla, che è finito per 1,78 miliardi di dollari nelle mani di Tencent, che è il più vasto gruppo internet cinese, uno dei più grandi nel mondo, ed è famoso per il sistema di messaggistica WeChat, che in Cina è usato quanto WhatsApp in Occidente e serve per mille altre cose, non ultimo il pagamento. Tencent sta seguendo le strategie di altre grandi aziende cinesi della digital economy come Baidu e Alibaba, cioè investono nella mobilità del futuro, che passa attraverso la propulsione elettrica, la guida autonoma e anche i sistemi di condivisione dei trasporti. Su questo veramente ci sono molti investimenti. Ovviamente i cinesi e tutto ciò sono spinti in tutto ciò dai problemi di congestione e inquinamento delle città cinesi, e investono miliardi anche e soprattutto in California, dove molte start-up stanno cambiando il mercato dell'auto. Ma anche in Italia qualcuno sta facendo cose interessanti. Nelle prossime settimane, forse nei prossimi mesi, avremo qualche cosa da raccontare proprio di concreto. Allora, un'altra notizia arriva da un'anticipazione del Wall Street Journal, poi confermata da Elon Musk, che lancerà a breve una startup chiamata Neuralink, una società che studia il modo per impiantare microchip nel cervello, grazie ai quali in futuro, non è una cosa che si fa velocemente, saremo forse in grado di inserire dati nel nostro cervello o scaricare pensieri dal nostro cervello. Una notizia che riguarda invece l'Italia, una cosa molto più semplice, la telefonia mobile. Allora, tutto il mercato sta attendendo con alcuni un po' di preoccupazione, altri invece con felicità, l'arrivo di Free, che è l'operatore francese famoso per i prezzi bassi, che ha conquistato la Francia, che arriverà anche in Italia grazie all'antitrust europeo. A quelli che dicono che l'Europa non funziona, invece in questo caso è una buona notizia che è stata determinata da una decisione dell'antitrust europeo, che ha imposto l'arrivo di un nuovo operatore dopo la fusione fra Tre e Wind, che sono diventati un unico operatore, anche se per il momento utilizzano brand distinti. Allora, per prepararsi, TIM ha lanciato proprio questa settimana un nuovo operatore mobile virtuale con prezzi molto competitivi. Si chiama Kena, K-E-N-A, Kena, e se volete saperne di più potete andare a controllare prezzi, offerte, eccetera, eccetera, su Kena Mobile. Noi non ci occupiamo di tariffe, ci occupiamo di tecnologia, però sicuramente per il mercato questa è una cosa importante, e di questo mercato nei prossimi mesi parleremo altre volte. Adesso parliamo di Samsung, che questa settimana ha presentato i nuovi Galaxy S8 e S8 Plus. Si tratta di due nuovi smartphone formato 5.8-6.2 pollici, con un fattore di forma nuovo, interessante, un po' più snello, un po' più allungato, dai 16 noni si è passato ai 18,5 noni, grosso modo 2:1. Questi smartphone arriveranno sul mercato alla fine di aprile. C'è la possibilità di prenotare online avendoli in anticipo, prezzi a partire da 829 euro. Ovviamente stiamo parlando di top di gamma, quindi anche i prezzi sono adeguati e correlati. Una cosa che spicca è che questo nuovo smartphone è tutto schermo, senza bordi, non ha nemmeno più il marchio Samsung in primo piano sullo schermo, sul display frontale. Ha un design in vetro e metallo molto bello e molti sono d'accordo, anche io sono d'accordo, che Samsung ha fatto un prodotto sicuramente molto interessante, un bel prodotto anche per farsi perdonare tutto quello che è successo con i problemi alle batterie del Note 7. Tra l'altro, scherzando, DJ Ko, che è il responsabile mondiale della divisione mobile di Samsung, ha detto: beh, abbiamo avuto un anno piuttosto problematico, e ha detto: sono diventato il massimo esperto di batterie. Ci posso credere, anche perché centinaia di persone hanno lavorato per cercare di capire quello che è successo. Scompare il tasto frontale, c'è una cosa, un sistema simile al Force Touch di Apple, quindi un effetto tattile quando si schiaccia sul fronte, però il tasto fisico scompare. Il lettore di impronta digitale è finito sul retro, però per sbloccare il telefono uno può scegliere, invece di mettere il dito sul retro, il riconoscimento dell'iride o del volto. Carlo Barlocco, presidente di Samsung Italia. Sicuramente il display è quella più impattante, perché è un display super tecnologico, quindi HD, primo HDR, quindi qualità dell'immagine unica, e borderless, quindi che abbiamo tolto praticamente le bande, un display veramente unico e performante. Ma sicuramente le cose interessanti sono anche altre, innanzitutto la sicurezza con il nostro software Knox e anche lo sblocco dello schermo con riconoscimento del volto e dell'iride, quindi unico sul mercato, e soprattutto tutta la parte software, quindi la predisposizione di questo prodotto già per l'IoT, quindi uno smartphone che parla direttamente con l'elettrodomestico e che si connette al cloud senza bisogno di ulteriori piattaforme. E cosa interessante, per la prima volta un'intelligenza artificiale che impara dalle nostre abitudini e ci permette di gestire non solo l'hardware ma anche la connettività dell'hardware con l'ecosistema che sta attorno, e quindi Bixby, che al momento è disponibile in lingua inglese ma nel secondo half di quest'anno diventerà disponibile anche in italiano. Il mercato in generale, perché poi ovviamente le performance delle vostre vendite dipendono anche dal mercato in generale italiano, come va? Il mercato va bene, è ovviamente un mercato molto, ormai molto distribuito, quasi tutti hanno uno smartphone, anche se poi c'è sempre il cambiamento tecnologico, il passaggio dal 2G al 3G al 4G e quando arriverà al 5G, però sicuramente stiamo vedendo che magari c'è qualche quantità in meno, però il prezzo medio aumenta all'insegna della qualità, quindi le persone, anche perché oggi ne fanno un uso molto molto più forzato, quindi tante applicazioni aperte, tanto download di dati, di video e quant'altro, quindi si ha sempre più bisogno di smartphone performanti, per cui si spende qualcosa in più e magari si cambia lo smartphone uno o due mesi più tardi. Questo è un top di gamma, come si dice, quindi anche i prezzi da top di gamma. Che percentuale rappresenta, che ruolo ha all'interno del mercato questa fascia di prodotti? Voi che avete una fascia molto ampia, insomma, fino anche a prodotti molto popolari. Questa è una fascia di prodotti che a quantità non è così rilevante, anche se sta crescendo molto, però diciamo che a valore rappresenta ormai quasi la metà del mercato italiano. Si vende più direttamente o tramite negozio, o gli operatori hanno un ruolo ormai molto importante? Noi abbiamo fatto una scelta a livello mondiale definita che portiamo avanti, quindi noi vendiamo solo in forma indiretta. Samsung non ha negozi di proprietà, ma utilizza sia il canale retail e open market che l'operatore, e diciamo che l'Italia è un paese atipico rispetto ad altri paesi dove i mercati sono, diciamo, equamente distribuiti, quindi dipende dai modelli, dipende dalla fascia dei prodotti, ma più o meno il peso, diciamo, è equivalente fra operatore e retail. Quindi 50-50? Più o meno sì, magari in alcuni momenti e su alcuni modelli l'operatore un po' di più, però più o meno è abbastanza equilibrato e, come dicevo prima, è atipico rispetto al resto dell'Europa e del mondo. Dove gli operatori invece hanno un ruolo importante? Sì, dove gli operatori hanno un ruolo importante, perché ovviamente il telefono diciamo si acquista molto più con un contratto rispetto che a una prepagata, come invece succede in Italia. Ultima domanda sul ruolo peso dell'Italia rispetto ad altri mercati, almeno europei, quelli con cui possiamo paragonarci. Come vanno le cose qui rispetto ai tuoi colleghi negli altri paesi? L'Italia è in Europa il quarto mercato in genere per la telefonia mobile, dopo Germania, Inghilterra e Francia. Per Samsung invece, per Samsung Italia, quindi per il nostro gruppo, va un po' meglio, perché siamo il terzo mercato invece, quindi abbiamo superato la Francia, e di questo siamo orgogliosi, perché vuol dire che gli italiani apprezzano, voglio dire, molto di più il marchio Samsung. Ci abbiamo lavorato molto bene, è un segno, voglio dire, una risposta di fiducia. Vuol dire che non solo i prodotti sono molto buoni, ma quando i clienti restano col marchio, vuol dire che anche il post vendita e la qualità dei prodotti ha dato soddisfazione. Parlando sempre di S8 e S8 Plus, i nuovi Galaxy presentati da Samsung con un evento a New York, ripetuto poi in giro per il mondo e anche in live streaming in tutto il mondo. Parlando di questo, vorrei adesso sapere, conoscere il parere sempre autorevole e prezioso di Carolina Milanesi, che è analista in California a Creative Strategies. Bentornata 2024. È sempre un piacere, specialmente perché è un po' che non ci sentiamo. Esattamente. Subito un parere su questo prodotto che è stato presentato, e devo dire che ha raccolto molti applausi da molti addetti ai lavori. Tu che cosa ne pensi? Guarda, è senz'altro un prodotto che coglie l'attenzione del consumatore nei negozi. Lo schermo è la cosa che ti colpisce prima di tutto, ma la cosa che è interessante, specialmente con l'8 Plus, è che quando lo metti paragonato all'iPhone 7 Plus, hai un telefono che è della stessa altezza più o meno dell'iPhone, diciamo un dito più stretto, ma è tutto schermo. E è questa la bellezza di questi prodotti, che hanno meno e meno il bordo, il contorno, no, dello schermo, perché i consumatori vogliono più schermo, non vogliono un telefono più grande. Sì, questa è sicuramente una delle caratteristiche che salta più all'occhio, anche questo fattore di forma innovativo che era già stato introdotto sul mercato da LG, questo rapporto grosso modo, adesso senza entrare in dettagli, 2:1, e quindi 18,5 a noni invece che 16 noni. Questo è, secondo te, un trend che vedremo sempre più negli smartphone dei prossimi anni? Sì, secondo me sì, perché appunto quello che il consumatore vuole è avere più schermo, ma non necessariamente avere un telefono che diciamo come impronta diventa più grande. Le nostre mani non è che diventano più grandi, e anche le nostre tasche, quindi avere qualcosa che puoi sempre usare con una mano sola, che rimane highly mobile, quindi che ti puoi portare dovunque, ma che ti permette con uno schermo più grande di consumare un contenuto diverso e in maniera molto più engaging, molto più immersiva, è importante. Quello che rimane da vedere è quanto in fretta le applicazioni e i contenuti verranno aggiustati per questo nuovo ratio, come dicevi tu, perché alcune delle applicazioni e anche contenuti mettono un bordo nero intorno al contenuto, quindi alla fine hai uno schermo che è più grande ma non viene utilizzato ancora tutto. Sì, altri trend interessanti sono sicuramente questo design con assenza di bordi che avevamo già visto con la linea degli Edge, sempre di Samsung, che ha fatto già parlare molto e aveva fatto un'innovazione in termini di design molto interessante. E poi anche l'assistente virtuale, c'è un po' un trend, tanti produttori da Apple a Microsoft a Google ed ora anche sempre più Samsung che ci vogliono fornire questo assistente virtuale sfruttando la capacità di raccogliere dati, di analisi di questi dati e anche sistemi di machine learning e di intelligenza artificiale. Anche qui siamo in presenza di un trend che coinvolge tutto il mercato e quindi ti immagini che lo vedremo sempre di più. E un'altra domanda legata a questa è: quanto ingombrante può essere la convivenza di questo Bixby, questo assistente virtuale di Samsung, che però deve convivere con tutto il mondo di Google e quindi dell'assistente virtuale di Google? Sì, questa è la grande domanda, no? Perché Bixby in realtà Samsung non l'ha chiamato un assistente virtuale, l'ha chiamato un'interfaccia intelligente. E secondo me questo è il modo in cui devi pensare a Bixby. Se pensi a Bixby come proprio assistente virtuale, rimani deluso, perché le capacità di Bixby di oggi sono limitate a una decina di applicazioni, sono limitate dal punto di vista di lingua, quindi in Italia Bixby non arriva per adesso perché le lingue sono inglese americano e coreano per adesso. Anche per arrivare all'inglese dell'Inghilterra dobbiamo aspettare un po' di mesi. Quindi limitata esperienza per un'applicazione che in realtà ti permette di navigare il telefono e di avere un'esperienza più immediata, diciamo, con alcuni dei contenuti del telefono in maniera intelligente. Questo è diverso da quello che le assistenti come Siri, Cortana, Alexa e Google Assistant fanno, e ovviamente Samsung è ancora ospite del mondo Android, no? E quindi rimane ancora ospite di Google, e quindi l'assistente di Google non va da nessuna parte ma rimane sul telefono. Quanto i consumatori poi riusciranno a capire e ad avere senso di che cosa preferiscono e che cosa vogliono usare, dobbiamo vederlo, è ancora presto. La realtà di oggi è che comunque i consumatori non comprano il telefono per l'assistente, questo è chiarissimo. Perché cosa lo comprano? Guarda, ancora le domande che ho visto da mercoledì a oggi erano ancora: quanto dura la batteria? Il telefono posso metterlo sott'acqua e funziona? Ha la capacità di essere di resistere alla polvere? Cioè, sono ancora queste cose molto molto basic, se vuoi, no? Che abbiamo avuto da qualche anno a questa parte, specialmente Samsung, che è stato water resistance da anni. Ma l'assistente, specialmente in Europa e specialmente in pubblico, non è qualcosa che vogliamo usare. Abbiamo fatto uno studio alla fine dell'anno scorso che faceva vedere che oltre ai 1200 consumatori che abbiamo intervistato in Europa, in 5 paesi diversi, inclusa l'Italia, solo il 18% utilizza le assistenti sui telefoni giornalmente, che è poco. Sì, sicuramente questo è un tema da approfondire per vedere appunto se e quando i consumatori riusciranno a interagire con le macchine, perché poi questo è un gatto che si morde la coda, perché se non lo si utilizza il sistema impara poco e quindi è meno utile. Esatto. Secondo te questo telefono contribuirà a mantenere la leadership nel mondo Android di Samsung? Beh, la leadership in generale, perché parliamo del primo produttore di telefoni nel mondo. Sì, senza dubbio, nonostante le domande intorno a questo è il primo telefono dopo i problemi con il Note 7, ancora gente che mi chiedeva ma sei sicura che questo non prenderà fuoco? La realtà è che Samsung ha fatto milioni e milioni di telefoni e hanno avuto un problema. Problema grosso, problema che non voglio assolutamente diminuire, ma l'hanno risolto e continueranno ad innovare, hanno messo un processo molto rigoroso per testare sia le batterie che il processo proprio di manifatturiero di tutto il telefono, e spero che questo sia un telefono che senz'altro aiuterà a fare l'upgrade, no? Persone che hanno modelli più vecchi che compreranno l'S8, senza dubbio. Vedo anche interesse da utenti che magari avevano altre brand as well, quindi gente che cambierà all'interno del campo Android la preferenza di brand. A livello di iPhone e Samsung, nonostante la gente cerchi di fare analisi di mercato di quanto i consumatori si spostano da una brand all'altra, diventa sempre più difficile perché la parte del sistema operativo adesso non è più soltanto il sistema per sé, quindi Android o iOS, ma è tutto l'ecosistema, incluso di assistenti. E quindi ci sono più scelte difficili, diciamo, quando cerchi di cambiare da Samsung a Apple o da Apple a Samsung. Ma senza dubbio questa è una pagina nuova per Samsung che lascia alle spalle il Note 7 e gli permette di guardare avanti e di guardare a un'offerta che diventa sempre più un ecosistema. Non soltanto di articoli che puoi toccare, quindi dei devices come il telefono, ma anche di applicazioni e servizi. Bene, io ringrazio Carolina Milanesi per essere stata con noi. A presto e buon lavoro. A presto, arrivederci. Adesso parliamo di automobili, anzi parliamo di come si vendono oggi le automobili. Beh, le persone sono sempre più online, attraverso i computer, attraverso gli smartphone si informano online e anche la vendita delle automobili ovviamente passa attraverso i canali digitali. Anche questo è un mondo che si sta trasformando molto velocemente, allora vorrei attirare la vostra attenzione su questo mondo, anche facendovi conoscere un'azienda italiana che da 7 anni lavora in questo settore, sta cambiando questo settore, è diventato uno dei player più importanti in Europa, sede a Milano, tecnologia italiana, sviluppo italiano, ma sedi anche in giro per l'Europa. A Milano ci sono più di 100 persone che lavorano a Motor K, che tra l'altro ha ricevuto recentemente un finanziamento, il primo finanziamento, ma stiamo parlando di una cifra piuttosto importante per una startup, che poi non è più ormai una startup, parliamo di 10 milioni di dollari. Che cosa fa Motor K? Marco Marlia è il CEO, quindi l'amministratore delegato di Motor K, Motor K con la K. Noi semplicemente aiutiamo le case auto e i concessionari con una serie di prodotti che abbiamo costruito nel tempo a usare e adottare le strategie digitali e i canali digitali per vendere meglio e vendere di più e diciamo per incontrare meglio il consumatore finale. Perché noi tutti i fondatori arrivano dal ramo digital del business, quindi abbiamo imparato l'automotive e forse un po' questa freschezza di approccio all'epoca ci fece notare che l'automotive, nonostante sia uno dei settori più importanti nell'economia reale, era un settore che era un po' indietro nel processo digitale e quindi è un po' nato così. Lo facciamo in due modi principali, che è uno con un marketplace per le auto nuove, cioè DriveK è un posto dove tu puoi andare e confrontare 3-4 auto di marche e modelli diversi per capire qual è l'auto giusta per te. E lo facciamo tramite una piattaforma software as a service, quindi una piattaforma erogata come servizio che permette al concessionario o alla casa auto, che poi lo dà al concessionario, di gestire quella che è tutta la loro strategia digitale. Quindi gestire la gestione del loro stock di auto, la pubblicazione di questo stock, le campagne pubblicitarie su questo stock, intercettare clienti e poi di gestire tutta la parte di gestione di questi clienti in appuntamenti, trattative e vendite per poi reintegrarsi con i sistemi gestionali del concessionario. Quindi voi non vendete auto direttamente online? No, noi non chiudiamo la transazione direttamente, ma abilitiamo centinaia di concessionari e quasi praticamente tutte le case automobilistiche a fare questo tipo di transazione. Quindi non abbiamo uno stock nostro. Secondo te, cosa succederà nei prossimi, forse non mesi, ma anni? Perché visto che molte cose si stanno spostando online, i consumatori sono sempre più spesso online e c'è chi dice in futuro si venderanno macchine completamente online, il concessionario quasi non esisterà più, cioè che cosa succederà? Allora, beh, sicuramente è difficile fare previsioni così a lungo termine, però quello che vediamo dai dati, ma soprattutto dal fatto che noi abbiamo la fortuna di parlare con molti consumatori, perché tutte le persone che chiedono un preventivo, per esempio sul nostro marketplace, c'è un nostro dipartimento che le chiama, interagisce con loro, qualifica le loro esigenze, li aiuta a scegliere l'auto, li supporta per tutto il processo. Quindi abbiamo il vantaggio che quest'anno parleremo con più di 1 milione di persone, tra Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, e vi assicuro che questa cosa dà un sacco di informazioni di ritorno, si capisce molto di come le persone approcciano l'acquisto. Allora, sicuramente andiamo verso un mondo dove ci saranno diverse nicchie di esigenze e diverse risposte. Cioè, è vero che c'è una percentuale, per ora piccolissima, poi diventerà un po' più grande, ma resterà comunque una nicchia, di persone che di andare in concessionaria non gli interessa assolutamente e vogliono iniziare e chiudere la transazione online. Però ci sono svariate statistiche, sia di Google sia fatta da noi, che dicono che più del 90% delle persone vogliono il meglio dei due mondi. Cioè vogliono da una parte avere la comodità di scegliere tra tutto il catalogo possibile online sul divano di casa, però dall'altra parte vogliono poter, prima di chiudere la trattativa, andare in concessionaria e magari scegliere gli ultimi dettagli, assicurarsi che comprano dalla persona giusta, sedersi nell'auto, sentirne il profumo. Ancora, diciamo, c'è su una spesa così importante, c'è una necessità di chiudere fisicamente la trattativa che riguarda ancora la stragrande maggioranza dei consumatori. In futuro si creeranno N nicchie, ci sarà quindi chi la noleggerà, chi la userà solo come servizio e quant'altro, però stiamo parlando comunque di un mondo che globalmente approccerà quasi 100 milioni di auto nuove vendute ogni anno, quindi in un mondo di trilioni di euro ci saranno molte nicchie miliardarie. Cioè, di quello che fate voi, perché non lo fanno le case automobilistiche? Beh, ci sono due o tre motivi di base. Sulla parte di marketplace, cioè su DriveKey, semplicemente noi siamo un player neutrale ed equidistante rispetto alle case e quindi diamo la possibilità di confrontarne tre in maniera omogenea, quattro in maniera omogenea, cosa che la casa non potrebbe mai fare. Quindi, diciamo, facciamo una sorta da consulente indipendente e questo è sicuramente il ruolo di un player come noi rispetto a quello di una casa. Dal punto di vista del software as a service, cioè delle piattaforme per i dealer, qui è un tema di dove sono destinate le ricerche e sviluppo delle case, che sono principalmente sulla produzione del veicolo, sull'evoluzione del veicolo, ma non su sistemi software o sui sistemi di distribuzione. Quindi noi in questo caso siamo un player tecnologico con un dipartimento di R&D importante che sta crescendo e siamo specializzati nel mettere insieme marketing, user experience, tecnologia e tutte quelle discipline che servono in questo ambito specifico. Ecco, a proposito di tecnologie e di sviluppo, che cosa sta cambiando di più e quali sono le tecnologie che secondo te daranno maggiori soddisfazioni nei prossimi anni? Tu prima ci hai detto, noi incontriamo 1 milione di consumatori, quindi grande quantità di dati, questi dati vanno poi analizzati, però in generale quali sono le tecnologie più interessanti? Beh, diciamo, ci sono alcune tecnologie a livello globale che faranno la differenza, cioè per esempio da 1 milione di consumatori che noi seguiamo per fino a 6 mesi, perché l'acquisto dell'auto non è un processo istantaneo, ricostruire tutto quello che si chiama customer journey, cioè il percorso d'acquisto, e capire come la gente si comporta è davvero un'attività di big data analysis e quindi è una miniera d'oro in termini di informazioni. Ed è anche molto complicata, giusto? Ed è anche molto complicata, cioè della matematica molto avanzata, ci sono N discipline che si mettono insieme, dati geografici, dati di comportamento, digital body language, sono tante cose che vanno insieme. Sì, perché, scusa se ti interrompo, ma lo diciamo ai consumatori, ai nostri ascoltatori, che sono anche consumatori in molta parte, quando parliamo del viaggio del consumatore, parliamo di una persona che magari ascolta la radio, che va su internet, poi usa lo smartphone, poi vede magari un pezzettino di televisione, legge una rivista, e quindi mettere assieme tutto questo è complicato, giusto? Sì, anche perché il desiderio delle case auto e dei concessionari è offrire l'auto giusta alla persona giusta nel momento giusto, e credo che questo possa essere un beneficio per il consumatore. Vi faccio un aneddoto divertente. ormai dipende dal paese, ma in Europa ci sono mediamente paesi in cui la durata del possesso dell'auto è 5, 6, 7 anni. Se pensate che della durata di un matrimonio sta scendendo da 9, 8 anni, scegliere l'auto giusta è una cosa abbastanza critica. E il problema è che scegliere l'auto non è un lavoro che fai con tutte le informazioni, è un lavoro che fai con un po' di informazioni che hai preso dalla casa, un po' di informazioni che ti ha detto qualche amico, e quindi diciamo qualunque tipo di supporto che possa aiutare la persona a scegliere l'auto giusta è davvero un servizio che nel futuro diventerà importante. Prima ti ho interrotto, forse volevi aggiungere alcune cose sulle tecnologie. Sì, e l'altra cosa è, secondo me ci sono molte tecnologie meno sofisticate in termini di analisi di dati e quant'altro, ma più di supporto ai processi, che aiuteranno gli operatori come le concessionarie a offrire un'esperienza migliore al consumatore. Cioè, ad oggi probabilmente molti ricordano com'era entrare in concessionaria 10 anni fa, in cui andavi a prendere i cataloghi e poi li sfogliavi davanti al caminetto. Ecco, adesso quell'esperienza sta evolvendo molto. Io credo che sia giusto e sensato la sensazione che ha il consumatore di voler avere l'esperienza del digitale anche in concessionaria, e la vicinanza dell'umanizzazione del rapporto anche quando è online. Quindi quando è online cerco di chattare con l'operatore in concessionaria, e quando sono in concessionaria voglio usare un'app per avere le informazioni del veicolo che sto guardando. Ecco, queste cose si mischieranno assieme in un processo che sicuramente diventerà un po' più complesso, però in un'esperienza che diventerà drasticamente migliore per il consumatore, perché diciamo l'automotive ha ampi margini di evoluzione da questo punto di vista. Comunque, da un certo punto di vista stai tranquillizzando i concessionari di automobili. Ma sicuramente viviamo in un mondo in cui nessun lavoro, nessuna categoria è protetta e sicura per i prossimi 50 anni. Devo dire che io credo molto che i concessionari possano fare grandi passi avanti. Vedo che quelli che hanno iniziato a lavorare con noi o con player come noi nel tempo hanno rivoluzionato il loro modo di approcciare il cliente. Vedo soprattutto la soddisfazione dei clienti in una nuova esperienza di acquisto che è diversa da quella di tanto tempo fa, in cui sono molto più informati, sono meglio seguiti, hanno l'informazione giusta al momento giusto, invece che girare un po' al buio e cercare di raccapezzarsi tra dati in posti diversi e luoghi diversi. Ci sono dei paesi dove ci sono delle esperienze particolarmente interessanti? Allora, di solito si guarda sempre gli Stati Uniti come il paese che è più avanti da questo punto di vista. La differenza in questo settore, nell'automotive in principale, è che il mondo statunitense, in termini di dinamiche di acquisto, in termini di comportamento e di rapporto tra il concessionario e il consumatore, è completamente diverso. E quindi le esperienze di successo, per quanto la tecnologia degli Stati Uniti sia sempre un po' più avanti, non travasano uno a uno come casi di successo qui in Europa. Se dovessi dire in Europa, probabilmente è più una questione a macchia di leopardo, cioè ci sono dei casi di successo in ogni singolo paese, ci sono 5, 10, 15, 20 operatori che hanno creduto da tempo in questo tipo di processo e riescono a dare ai clienti un vantaggio in più, un valore in più, e quindi ne traggono il risultato. Ecco, se ti domandassi, nel vostro mondo in forte trasformazione, quali sono i modelli magari simili o comunque diversi dal vostro che ti piacciono e che stanno facendo cose interessanti? Beh, sempre nell'automotive? Esatto, automotive e digitale, cioè come le tecnologie del mondo digitale stanno trasformando questo business. Ma diciamo che vedo ad oggi tante cose interessanti, tutti i trend, forse non c'è bisogno che ne parlo, di l'uso dell'auto come servizio, a sistemi nuovi di scelta e di esperienza del veicolo direttamente in concessionaria, al 360 visto col tuo smartphone per vivere l'esperienza del test drive a distanza. Quello che ancora aspettiamo un po' tutti di vedere è come si assemblano tutti questi pezzettini in un'esperienza completa. Quindi su questo non c'è ancora stata la rivoluzione che ci aspettiamo, che forse sarà i prossimi 2-3 anni, saranno questo il prossimo passo. Ecco, in base ai vostri dati, senza appunto andare troppo in avanti, ma ad oggi mediamente il consumatore come arriva a comprare l'automobile, cioè dal momento in cui comincia a pensarci, quindi va su internet, si informa, come è questo percorso, questo viaggio del consumatore? Do qualche media, ma il bello di queste medie è che poi la varianza è elevatissima, quindi dentro sono nascosti tanti comportamenti differenti. Mediamente il periodo di acquisto di un'auto nuova, che comunque un po' alla volta si sta accorciando, cioè la decisione si prende più rapidamente, però dura ancora più di 3 mesi. Quindi 3 mesi e mezzo circa. Quindi vuol dire che dentro ci sono persone che comprano in una settimana perché magari hanno un'esigenza, hanno rubato la macchina, una cosa più banale di tutte, e persone che, diciamo, ci mettono un anno a prendere una decisione. Questo perché? Perché la raccolta di informazioni è ancora una fase fondamentale. Cioè la persona mediamente che acquista un'auto guarda 25 fonti di informazione. Probabilmente se ci mettiamo qui insieme non le tiriamo fuori 25 siti su cui andare. Questo vuol dire che c'è ancora una forte esigenza di raccolta di informazioni, perché la fase di comprendere e scegliere qual è l'auto giusta per me in un mondo in cui le mie esigenze o le esigenze del consumatore medio cambiano rapidamente è comunque una questione delicata. E poi diciamo che c'è un trend per cui le persone sono molto più shopping oriented. Mentre prima la fedeltà ai brand era, diciamo, per alcuni brand una fonte importante di vendite, ad oggi il consumatore è molto più orientato a mettere a confronto brand diversi, ma soprattutto un dato che prima non c'era e adesso ci stupisce alquanto: i consumatori mettono a confronto una station wagon, un piccolo SUV e un monovolume che prima tra di loro non si consideravano competitor. Questo proprio perché c'è un approccio un po' diverso a quello che l'acquisto. Quello che invece è in calo drastico è il numero di visite in concessionaria. Cioè 10 anni fa le persone andavano 8 volte in concessionaria, magari in alcune concessionarie andavano 2 volte, perché la fase informativa era lì, quindi andavano a raccogliere davvero i cataloghi e poi compravano, passavano per i preventivi e poi andavano a comprare. Adesso i primi 2 momenti, cioè la parte soprattutto di raccolta informazioni, sono fatti online. E quindi le persone vanno in concessionaria solo per la validazione finale. Infatti, a seconda dei territori, parliamo di 1 visita e mezzo, 2 visite, cioè c'è stato un crollo drammatico del traffico in salone. Però quella visita rimane, quella visita e mezzo rimane. Cioè vuol dire che magari ne vado a vedere 2, o magari vado a vedere solo quella che mi interessa perché voglio avere la conferma prima di... Mediamente noi tracciamo 21.000 euro di spesa sui nostri sistemi, quindi prima di fare un investimento che comunque è importante per una famiglia. Uno dei temi quando parliamo di tecnologia è alfabetizzazione, è cambiamento culturale delle persone, perché si è sempre fatto così. Io immagino anche i vostri clienti sono i concessionari, giusto? Non sono altri clienti, e immagino che molto spesso la risposta possa essere: vabbè, ma noi abbiamo sempre fatto così, che cosa ci volete venire insegnare a voi che siete dei ragazzini nati su internet e con i computer, no? Sì, in effetti credo che qualche volta questa frase l'ho sentita. Noi credo che investiamo tantissimo nel aiutare tutto il comparto automotive a scoprire di più il digitale, a conoscere meglio gli strumenti. Giusto per citare 2 o 3 cose, facciamo l'evento più grande in Europa sul digital automotive, si chiama Internet Motors. Ci partecipano ogni anno tra Italia, Francia, Spagna e Germania più di 2.000 operatori tra concessionari, case e quant'altro. Abbiamo fatto l'ultimo a Milano, che è il nostro principale, con più di 1.000 persone settimana scorsa, e qui portiamo sul palco aziende come Google, Autoscout, cioè giganti del digital che spiegano cosa succederà nei prossimi 2, 3, 4 anni e un po' aiutano la divulgazione di questi aspetti. E dall'altra parte, giusto proprio su un tema di open innovation, di diffusione culturale, di apertura totale, noi per esempio abbiamo raccolto tutto quello che abbiamo imparato fino ad oggi su come si crea la concessionaria digitale in un libro di più di 400 pagine che si chiama Il metodo di Lerkey, che è il nostro brand con cui comunichiamo ai concessionari, e che abbiamo tradotto in italiano, francese, spagnolo, tedesco e inglese, proprio per darlo liberamente ai concessionari e per creare questa cultura, questa sensazione di imparare questa conoscenza degli strumenti che è fondamentale per l'evoluzione dell'industria. Scusa, a tal proposito, non so se esiste una statistica, fatto 100 il numero dei concessionari di auto, e quanti si sono digitalizzati, non tutti magari tramite voi, anche in autonomia? diciamo che non c'è un on-off di sei digitalizzato, c'è un percorso lungo e impattando tecnologia, processi, organizzazione è anche un percorso che richiede probabilmente 2-3 anni prima che davvero vedi i frutti. Quello che posso dire è che secondo me 70-80% dei dealer in qualche modo ha ampiamente iniziato il percorso di digitalizzazione. In alcuni casi sono a vari stadi. Ci sono, come l'ho detto prima, in ogni paese dalle 10 alle 30 realtà che hanno completato, diciamo, sono allo stato dell'arte e che davvero hanno un vantaggio competitivo perché offrono ai clienti un'esperienza diversa. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e anche su Twitter. Come sempre vi ricordo che l'edizione podcast, il nostro super podcast, presenta tutte le interviste in versione integrale. Beh, un'altra considerazione che aggiungerei su quello che abbiamo detto poco fa del nuovo Galaxy S8 di Samsung riguarda una scelta che è stata fatta molto discussa di Apple, cioè l'assenza del jack audio. Apple con l'ultimo iPhone aveva deciso di togliere il jack audio, imponendo di fatto ai consumatori questa nuova visione tutta wireless. Per Apple il futuro anche dell'audio è completamente senza fili. Devo dire che poi usando cuffiette senza fili si capisce che la scelta ha una sua logica, però visto che nel mondo ci sono tantissimi auricolari con il filo, è comunque un sistema che viene utilizzato da moltissimi, molti si facevano la domanda: giusto o non giusto? Gli altri produttori che cosa faranno? A parte due produttori marginali che avevano scelto la stessa cosa, per il momento nessuno ha fatto questa scelta e c'era molta attesa per capire se anche Samsung avesse scelto di seguire, di fare la stessa scelta. Invece Samsung ha deciso di non togliere il jack audio. Nei nuovi Galaxy S8 e S8 Plus il jack audio esiste ancora e tra l'altro Samsung ha sottolineato che all'interno della confezione c'è una cuffia di valore creata da HPG, anche perché Samsung ha comprato Harman, grande azienda che fa anche audio negli Stati Uniti. All'interno ci sono tantissimi brand, non ultimo HPG. Chiuso questo capitolo, ne apriamo un altro. È con noi David Orban. David, bentornato a 2024. Ciao Enrico. Ricordo che David Orban è advisor e docente alla Singularity University negli Stati Uniti e anche chapter ambassador, si dice così, quindi l'ambasciatore responsabile di Singularity U Milan, che è la sezione milanese di Singularity University. Dunque voi il 18 aprile dedicherete una giornata di pomeriggio di approfondimento sul settore spaziale. Partendo da alcune considerazioni, devo dire che se uno segue 2024 si sta accorgendo che molte cose stanno cambiando, ci sono alcuni elementi di discontinuità. Che cosa sta succedendo, David? Ma per dare un po' di contesto a chi ci segue, io menzionerei 3-4 fattori. Innanzitutto ci sono cose che sono davvero difficili e non per niente la metafora che si usa, questo non è rocket science, per dire no, questo è banale. Lo spazio è letteralmente rocket science. Sì, quindi, rocket, ricordiamo, è il razzo. Sì, okay, è qualcosa che è complicata, ma anche che può esplodere e distruggere milioni o decine o centinaia di milioni di dollari di valore. E quindi ci sono voluti decenni perché l'esperienza si accumulasse. Quando Colombo ha scoperto l'America, è stato il primo o il secondo dopo i vichinghi averlo fatto con successo, e oggi ci andiamo crociera o in aereo senza neanche pensarci più di tanto. Il secondo aspetto è paradossalmente la dismissione del programma dello Space Shuttle, che ha liberato, fra virgolette, perché sono diventate disoccupate, 100.000 persone e più con una esperienza incredibile, e loro giustamente non sono andati a bussare per avere la pensione sono andati al supermercato a fare un altro mestiere. Sono andati ad applicare i propri skill appresi in lungo decenni nell'industria che conoscono, però facendola nascere appunto non più su base pubblica ma su base privata. Il terzo aspetto infatti fondamentale è la disponibilità di finanziamenti di venture capital, che devono essere anche di decine o centinaia di milioni, come infatti sono. Però per la quarta ragione possono essere anche di pochi milioni, perché la miniaturizzazione dei componenti elettronici e la standardizzazione di certi formati di satellite ha ridotto di ordini di grandezza i costi di progettazione, realizzazione e lancio. Luca Rossettini è il CEO, l'amministratore delegato di D-Orbit. Benvenuto a 2024, Luca. Grazie. Luca, partiamo dalla vostra idea, i vostri progetti, la vostra attività. Di che cosa vi occupate? Sì, D-Orbit, un po' come dice il nome, noi siamo nati con l'idea di immettere nel mercato un prodotto per deorbitare i satelliti, quindi rimuovere i satelliti a fine vita in modo da evitare un aumento sistematico di detriti, di immondizia nello spazio, che potrebbe causare uno dei più grandi colli di bottiglia per lo sviluppo di questo business spaziale, con grandi ricadute anche a terra. Quindi questo, noi siamo partiti da questo e oggi in realtà rappresentiamo un po' l'azienda cosiddetta Nuovo Spazio, New Space in inglese, di cui ha cominciato a parlare David. Quindi siamo un'azienda che ha visto nel settore spaziale un'opportunità di business, un'opportunità di crescita, un'opportunità che permette a noi chiaramente di creare azienda e di avere un impatto sociale anche molto alto. Quindi grazie alla tecnologia che abbiamo sviluppato per rimuovere i satelliti a fine vita, oggi offriamo anche servizi a tutte quelle aziende nuove che approcciano il settore spaziale, che vogliono lanciare piccoli satelliti, per dare loro lo stesso servizio che veniva dato ai grandi satelliti tradizionali, quindi posizionarli in orbita in modo preciso, in modo che possano fare il loro mestiere senza avere, diciamo, tutti i lati, gli aspetti negativi di essere piccoli. Allora, c'è un aspetto che effettivamente è rocket science, nel senso che è complicato, ma per le ragioni che diceva David, queste cose cominciano a diventare alla portata di più che molti, diciamo molte aziende. Cerchiamo di capire quanto sta diventando, sempre tra virgolette, popolare questo mercato. Diciamo che negli ultimi anni il mercato spaziale diciamo, non solo è cominciato, ma è letteralmente esploso. Se uno dopo questa trasmissione, comincia a fare caso alle notizie sui giornali, vedrà che sempre più spesso ci sono notizie legate a nuove attività di business, molte di queste provenienti dagli Stati Uniti, nuovi servizi che vengono erogati alle persone sulla Terra provenienti dallo spazio, perché ricordiamoci che la maggior parte della tecnologia che noi utilizziamo oggi sulla Terra, secondo il sito NASA, quindi parliamo del 70%, direttamente o indirettamente provengono dallo spazio. Quindi noi oggi, anche senza volerlo, senza rendercene conto, utilizziamo pesantemente l'infrastruttura spaziale. Cioè, quindi 70 cose o servizi che noi utilizziamo, quando parliamo di tecnologia, in qualche modo derivano da ricerca fatta per andare nello spazio. Sì, ma persino da oggetti che noi utilizziamo, il trapano a batteria, il velcro, ci sono mille oggetti, oggi non direbbe mai che questi oggetti vengono dalla ricerca spaziale, ma soprattutto servizi. Pensiamo solo al GPS, noi oggi ci muoviamo utilizzando il telefonino, ci spostiamo da un punto A a un punto B e nel 90% dei casi attiviamo il GPS. I trasporti, oggi beni e servizi vengono erogati utilizzando servizi satellitari che monitorano il movimento di camion, il movimento di navi, permettono di migliorare migliorare alcune funzionalità di aziende. David all'inizio della trasmissione ha citato Internet of Things, quindi Internet degli oggetti. Ecco, questi sono servizi che sempre più spesso possono essere organizzati e forniti tramite costellazioni di piccoli satelliti che in tempo reale riescono a coprire tutto il globo, quindi scalare completamente un'attività coprendo tutta la superficie terrestre. David, sempre in questo ambito, per far capire quanto questa rivoluzione e questo mercato che sta esplodendo legato allo spazio riguarda noi, ma anche molte aziende, perché questa è una cosa importante. E si sta formando un nuovo rapporto tra le capacità di iniziative pubbliche, anche attraverso finanziamenti europei, che si può fare, e le aziende come di Orbite e molte altre. E la European Space Agency, l'agenzia spaziale europea con cui come Singularity University collaboriamo, infatti al nostro evento di 18 aprile a Milano verranno anche loro a parlare, ha appena lanciato un nuovo satellite. La cosa interessante è che questo ad una risoluzione di 10 metri, nella frequenza ottica, quindi fotografie, copre l'Europa, ma anche il resto della Terra, ogni 5 giorni, aggiornando quindi costantemente ogni settimana le immagini, che sono disponibili su licenza libera. Quindi tutti le possono usare. Chiunque può inventare una nuova applicazione, una nuova startup che si basa su queste immagini. È incredibile. E potrebbe domandare, ma che cosa ci faccio con delle immagini satellitari? E qui... Allora, un esempio è l'agricoltura di precisione, dove un'azienda agricola può utilizzare queste immagini per capire dove c'è una particolare mancanza di acqua, quindi migliorare l'irrigazione, oppure dove applicare pesticidi invece dove non servono. E un altro esempio che non è applicabile con questa risoluzione, c'è bisogno di risoluzione maggiore. Per questa risoluzione ancora bisogna pagare, ma uno fa i conti e decide di pagare. Bisogna pagare aziende che fanno fotografie grazie a costellazioni di satelliti che hanno una risoluzione molto elevata. Esatto. Ed è la possibilità di anticipare eventualmente o trovare correlazioni con i risultati trimestrali che vengono annunciate dalle aziende quotate in borsa, dove tu vai a contare, per esempio, le macchine parcheggiate nei centri commerciali per prevedere se c'è un aumento o una diminuzione delle visite nel centro commerciale, e lo puoi fare, tra l'altro, utilizzando sistemi di intelligenza artificiale in modo automatico e su scala che copre l'intera Europa per una multinazionale, quindi correlando le vendite anche su diversi mercati. Luca Rossettini di Orbit, ci spieghi qualche cosa in più sul vostro, come lo chiamate, prodotto servizio? Sì, aggiungo una cosa prima. Prego, per introdurre un po' meglio il nostro prodotto e servizio. Noi siamo proprio nati nell'ecosistema che ha appena spiegato David, e abbiamo scelto di operare nel settore spaziale perché il settore spaziale, un'infrastruttura spaziale, permette di coprire immediatamente tutto il globo. Quindi oggi una startup può decidere di cominciare in un mercato locale e poi espandersi via via, con chiaramente costi crescenti, oppure può decidere di utilizzare servizi da costellazioni già esistenti o crearsi la propria costellazione e immediatamente scalare, quindi avere la possibilità di vendere i propri servizi, diciamo, su tutto il pianeta, con delle possibilità di crescita chiaramente molto ampia. Ecco, noi abbiamo scelto di occuparci di un settore che è quello del trasporto spaziale, che ovviamente oggi non esiste, oggi non si usa il trasporto spaziale, perché riteniamo che anche nello spazio succederà quanto sta succedendo sulla Terra. Oggi tutti i business, tutte le attività di business sulla Terra sono abilitate dai servizi di trasporto. Se non ci fossero servizi di trasporto, noi oggi non potremo ricevere da Amazon il nostro pacchetto o dalla DHL la busta che abbiamo inviato. Sì, sì. E soprattutto se io oggi vado ad Amsterdam non mi porto la bicicletta, arrivo ad Amsterdam e ne noleggio una. Nello spazio non è ancora così. Cioè, spieghiamolo questo aspetto, perché poi uno può dire: beh, il trasporto spaziale esiste perché ci sono i razzi che partono quasi tutte le settimane. Sì, io parlo di trasporto nello spazio, quindi una volta arrivati nello spazio come ci spostiamo? Oggi i satelliti grandi hanno a bordo il loro motore, quindi possono andare da un'orbita all'altra e raggiungono, diciamo, la posizione dove possono operare autonomamente. Ma è ragionevole pensare che in futuro, con lo sviluppo di questo nuovo ecosistema spaziale, ci siano servizi di trasporto che vengono offerti, quindi il satellite potrà prendere l'autobus e spostarsi da una parte all'altra. Questo noi lo offriamo già oggi per i piccoli satelliti, quei satelliti di cui ha parlato David, quindi quei satelliti piccoli, poco costosi, che non hanno a bordo un proprio motore, quindi non hanno la possibilità di spostarsi. Noi li prendiamo e li posizioniamo dove devono andare. Sì, stiamo parlando di satelliti che sono grandi. Io l'ultima volta che ho parlato di queste cose, dando la notizia di un record di oltre 100 satelliti lanciati da un razzo indiano, dicevo, sono grandi come un panettone. Più o meno. Sì, sì, esiste uno standard che viene chiamato CubeSat, uno standard inventato da un'università americana. Non è un vero standard normato, è uno standard di fatto, creato dall'utilizzo. E questo standard, le dimensioni di questo satellite è 10x10x10 centimetri. Poi oggi si utilizzano le composizioni di questo standard. Quindi anche più piccolo del panettone. Sì, tre però, unità CubeSat, sì. Diciamo, noi ad esempio lanciamo tra 2 mesi un satellite di queste dimensioni, quindi di 3 unità CubeSat, 30x10x10, che ha una stessa architettura di un satellite molto grande, quindi estremamente affidabile, e sarà il primo satellite al mondo ad essere rimosso in modo controllato e sicuro dallo spazio. Quindi lo utilizziamo come test e validazione di una tecnologia. Cosa farà questo satellite? Questo satellite avrà a bordo due esperimenti di un ente e di un'azienda. L'ente testerà un nuovo protocollo di comunicazione di emergenza per segnalare, ad esempio in caso di disastri naturali, segnalare alle persone, mandare messaggi alle persone anche quando la rete telefonica non funzionerà. E l'azienda invece, che ha a bordo del nostro satellite il proprio cosiddetto payload, quindi carico pagante, testa un sistema di allarme per gli aerei quando qualche oggetto dallo spazio rientra. È un mercato anche questo molto interessante. Quindi noi effettueremo questi test per queste, diciamo, due aziende che collaborano con noi. Dopo aver effettuato questi test, rimuoveremo il satellite, dimostrando da una parte che è possibile prendersi cura della propria immondizia, come facciamo sulla Terra, e dall'altra che anche un satellite piccolo riesce ad avere potenzialità e capacità simili, paragonabili a satelliti molto più grandi. E poi dove lo mettete? Cioè lo rimuovete e lo portate dove? Allora, questo in particolare, essendo molto piccolo, nonostante la traiettoria dove noi lo spingeremo arriverà in un punto, diciamo, nell'oceano dove non potrebbe danneggiare nessuno, in ogni caso questo satellite brucerà interamente, diciamo, a contatto con l'atmosfera. I satelliti che noi rimuoviamo tramite i nostri dispositivi un po' più grandi dipende da dove sono. Se sono satelliti vicini alla Terra, li riportiamo comunque verso Terra, senza che questi però vadano a cadere sulle teste delle persone, per intenderci. Se sono satelliti lontani, come i satelliti delle telecomunicazioni, nell'orbita geostazionaria a 36.000 km dalla Terra, vengono parcheggiati in un'orbita cosiddetta cimitero, una sorta di discarica spaziale, in attesa che un giorno, con una tecnologia che ancora oggi non c'è, possano essere recuperati e riciclati direttamente nello spazio. Quindi magari utilizzati come materia prima per un'industria spaziale direttamente in orbita. Beh, tu immagini che gli accordi internazionali che regolano lo spazio portino un giorno ad un obbligo di smaltimento, così come c'è sulla Terra? L'obbligo in realtà c'è già. Esiste un trattato internazionale chiamato, diciamo, nella forma breve si chiama proprio Space Treaty, trattato spaziale, ratificato da, credo oggi, 104 nazioni al mondo, quindi anche da nazioni che non hanno effettivamente accesso allo spazio, e che prevede tutta una serie di misure per regolare l'utilizzo dello spazio, quindi non solo relativo all'immondizia, ma anche alla proprietà, eccetera. Per quanto riguarda l'immondizia, dell'immondizia, c'è da dire che oltre a questo trattato i singoli stati possono fare e implementare la loro regolamentazione. L'Europa è leader in questo senso, grazie prima alla legge francese. Ricordiamoci che in Europa la base di lancio che abbiamo in Europa è principalmente francese, a Kourou, in Guyana francese. Sì. E il lanciatore è gestito da Arianespace, che è francese. Esatto. Quindi è partecipato da altre nazioni, ma di fatto è francese. Esatto. Quindi tutti i satelliti europei che lanciano, diciamo, in Europa devono rispettare questa legge. E oltretutto l'Agenzia Spaziale Europea ha delle linee guida interne che quindi si applicano in maniera abbastanza rigorosa a tutti i propri satelliti, che prevedono non solo la rimozione del satellite a fine vita, ma se il satellite dovesse essere sufficientemente grande, tale da mettere in pericolo le persone o le proprietà a terra, questo satellite deve essere rimosso in modo controllato, diretto, quindi sapere esattamente dove andrà a finire. Caso di questi giorni, satellite lanciato da NASA diversi anni fa, più o meno 10 anni fa è stata presa una scelta all'interno di NASA di continuare la vita di questo satellite, chiedendo quello che si dice in gergo tecnico un waiver, quindi la possibilità comunque di contravvenire a queste regolamentazioni. Questo satellite oggi sarà rimosso, ma rimarrà in orbita per decine e decine di anni, quindi costituendo una vera e propria minaccia per tutti gli altri. Ecco, in Europa noi questo non lo permettiamo più, e a seguire gli Stati Uniti hanno già implementato e implementeranno regole più restrittive, e il Giappone sta vedendo che cosa stiamo facendo in Europa per adeguarsi a queste regole, diciamo, più restrittive della media. Voi la startup, oddio, forse è meglio chiamarla azienda, perché già da qualche anno operate, l'avete fatta in Italia, giusto? Sì, sì, diciamo che ormai siamo fuori dalla fase di startup, abbiamo cominciato, grazie al cielo, a fatturare anche noi, quindi siamo una vera e propria azienda, piccola, ma siamo un'azienda. Abbiamo cominciato in Italia, oggi la produzione è in Italia, vicino al Lago di Como, e abbiamo una sede in Portogallo dove facciamo software per applicazioni critiche, in particolare in questo momento chiaramente per lo spazio, e una piccola sede dove in realtà abbiamo solo 2 persone negli Stati Uniti per il mercato americano. Avete ricevuto sufficienti finanziamenti, essendo basati in Italia? Sappiamo, ne abbiamo parlato anche 2024, dei problemi del mercato, dell'ecosistema dei venture capital, cioè se fosse stati in Silicon Valley o in Florida? Io e il mio socio Renato Panesi eravamo in realtà in Silicon Valley, stavamo lavorando presso NASA Ames quando nel 2010 abbiamo deciso poi di tornare in Europa per creare la società. Non sono state rose e viole, nel senso che il settore spazio è ancora un settore molto nuovo e percepito con diffidenza, quindi molto ad alto rischio, quindi non è stato assolutamente facile. Abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che anche nel business serve. Un fondo di investimento italiano aveva a bordo 2 manager con una laurea in ingegneria aerospaziale, quindi capivano la tecnologia e capivano il business. Questo ci ha permesso di partire. Ad oggi non abbiamo mai raccolto i soldi di cui avevamo davvero bisogno, ma visto che siamo italiani ce l'abbiamo fatta comunque, no? Questo è il vantaggio di essere in Italia, cioè comunque ti rimbocchi le maniche in un modo o nell'altro, riesci a portare a casa i risultati in meno tempo di quello previsto, con meno soldi. Certo, tutto ha un costo, però diciamo ad oggi ce l'abbiamo fatta, siamo qui, non è finita, siamo a metà del guado, e in futuro chiaramente, se l'azienda vorrà crescere, dovrà dotarsi di strumenti diversi. Finanziari, dici? Finanziari. Certo. David? A livello europeo sicuramente gli investimenti in venture capital devono irrobustirsi. Il ritardo sugli Stati Uniti in termini di volumi investiti e di diversi ordini di grandezza. Esiste anche il problema contrario nella Silicon Valley: aziende ricevono troppi soldi, anche se può sembrare assurdo. Troppi soldi portano dietro una crescita anticipata, dove magari il modello di impresa non è ancora chiaro, l'assunzione rapidissima di persone che poi non riescono a integrarsi nella cultura dell'azienda, e l'uso, l'impiego di questa risorsa, che è solo una delle componenti, cioè la risorsa finanziaria, in una maniera inopportuna. L'ultima parte dal punto di vista dell'investitore è che quando l'azienda si valorizza eccessivamente diventa un cosiddetto unicorno, che è valutato per più di $1 miliardo, comunque deve ritornare il capitale prima o poi all'investitore, deve esserci il cosiddetto evento di liquidità. Oggi ci sono più di 168 unicorni in attesa di o quotarsi in borsa o di essere acquisiti da un'azienda. È un po' come se tu fossi seduto in aereo sulla pista di decollo, guardi l'orologio e aspetti e vedi che non succede niente. Guardi fuori dalla finestra e vedi che ci sono in coda 167 aerei in attesa di decollare, tutte prima di te. E dici, ma qua, quando è che succederà? Certo, questo è un problema. Davide, di questo tema, cioè di questo mercato esplosivo dello spazio, parlerete la metà di aprile, giusto? Il 18 aprile dalle 2 alle 7 a Milano presso il bellissimo Vodafone Theater in via Lorenteggio, un evento aperto al pubblico. Gli incontri, noi oggi abbiamo come Singularity University 4 chapter in Italia, Milano, Roma, Venezia e Modena. Gli incontri dal chapter di Milano sono mensili, sempre in un luogo diverso, generalmente 100-200 persone. Questa volta avremo spazio per avere 400 persone, anche perché ci sarà la premiazione della Global Impact Challenge, che ogni anno, questo è il sesto anno, assegna una borsa di studio ad un italiano o ad un'italiana per andare per 10 settimane durante l'estate presso il NASA Research Park in California con Singularity University. Bene, avremo occasione di risentirci per ricordare l'appuntamento di settembre, che è un altro appuntamento importante per Singularity University. E il Singularity U Italy Summit, per la prima volta in Italia, darà modo a chi vuole di approfondire davvero questi temi. Nell'arco di 2 giorni parleremo di intelligenza artificiale, robotica, biologia sintetica, cyborg. Blockchain, cyborg naturalmente. Spazio. Ci saranno tutti i temi della frontiera della tecnologia che beneficia l'umanità. David, prima di salutarti, e solo per i nostri amici del podcast, che da questa settimana ribattezzo Super Podcast, il nostro lunghissimo podcast, volevo farti una domanda su quello che ha annunciato, o meglio, più che annunciato, ha confermato un'indiscrezione del Wall Street Journal. Ha detto: fra pochi giorni, fra poche settimane vi dirò qualche cosa in più. Parlo di Elon Musk, lo dicevo anche nelle nostre digital news, ha confermato questa indiscrezione, che sta lavorando a una cosa che si chiama Neuralink, una società che studierà come impiantare nel cervello microchip. Ne abbiamo già parlato e questa è una, non so se chiamarla tendenza, ma comunque sono studi di cui si sta occupando non solo Elon Musk e non solo le persone che lavoreranno con Elon Musk. L'ibridazione delle persone con la tecnologia va avanti da migliaia di anni. E quindi questo è un suo prossimo passo in accelerazione, forse oltre a quello a cui molte persone oggi sarebbero disponibili. Ma non c'è problema, perché la generazione che nascerà con questi collegamenti diretti tra cervello e computer vedrà l'universo come semplicemente popolato da questa possibilità. E Elon Musk definisce uno dei nostri più importanti problemi quelli di una banda, una larghezza di banda, non del collegamento ADSL che non ti funziona la sera quando tutti si collegano, ma quello delle persone con i nostri problemi, input e output, di come assorbiamo l'informazione e come comandiamo le cose attorno a noi. Questa è anche una risposta alle preoccupazioni che ci sono di fronte all'intelligenza artificiale sempre più vicina alle capacità umane. No? La possibilità di capirci con le intelligenze artificiali dipenderà anche da quanto rapidamente ci evolviamo. Loro eventualmente si degneranno di parlarci nella nostra lingua, se saranno così gentili. Loro le macchine. Ma noi sicuramente dovremo fare degli upgrade progressivi. E uno degli importanti upgrade che potremo affrontare, se vorremo, e di poter pensare per fare una ricerca su Google o per cambiare la temperatura nella nostra abitazione. E naturalmente queste sono cose banali, non è a questo che noi useremo queste nuove possibilità, ma concretamente i passi sono necessari. Un'ultima domanda su questo tema: tu pensi che vedremo presto risultati da una startup di questo tipo e dalle altre che stanno e nasceranno, o effettivamente per molti anni rimarranno dei laboratori di ricerca? Le interfacce dirette cervello macchina esistono già. Ci sono i video online che si possono vedere di come persone disabili muovono braccia robotiche, sì, anche se loro sono quadriplegici, cioè proprio sì, hanno il corpo separato dalla testa perché gli si è rotta la spina sì, dorsale o al collo, anzi. Quindi, come in altre cose, per esempio il riconoscimento vocale, dall'applicazione nella vita per migliorarla radicalmente di coloro che non hanno alternativa, questo arriverà presso le tasche, come i cellulari oggi che riconoscono cosa gli dici, o nei cervelli, come arriverà con questa interfaccia, di letteralmente tutti. E tutti noi decideremo quando è il momento giusto per noi. C'è chi non ha ancora comprato uno smartphone e nessuno lo obbliga di farlo, e quindi ci saranno persone che diranno: io non voglio farmi impiantare nel cervello niente. Nel momento in cui sarà possibile farlo senza un intervento fisico, e quindi indossando un cappello, indossando una cuffia, chissà che cosa, quello sarà il momento giusto in cui esploderà l'applicazione verso tutti. Bene, grazie a David Orban per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Ciao David. Grazie. E grazie anche a Luca Rossettini. Buon lavoro e non so se si dice in gergo spaziale, come si dice? In bocca al lupo, buon divertimento. Sì, buon divertimento di sicuro, perché ci divertiamo un sacco. Certo. Ma in bocca al lupo va bene, crepi il lupo. Il lupo allora. Arrivederci a tutti. Anche per questa settimana abbiamo chiuso la nostra puntata, abbiamo concluso. Sempre molto interessante incontrare i nostri ospiti, quindi speriamo anche per questa settimana di avere offerto un approfondimento a tutti i nostri ascoltatori, soprattutto a chi ci ascolta via podcast. Il nostro super podcast è la nostra edizione speciale con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Io sono Enrico Pagliarini, l'indirizzo di posta elettronica che potete utilizzare 2024 è radio24.it per fare considerazioni di qualsiasi genere, anche per tirarci le orecchie, per tirarmi le orecchie, oppure per suggerimenti, qualsiasi cosa vogliate. Ci risentiamo la prossima settimana, ci trovate anche su Facebook, lasciamo la papera nel podcast, su Facebook e anche su Twitter. Un po' di dietro le quinte ci vuole. Ci risentiamo fra 7 giorni.